Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti in frequenza, siete su Blu Radio Veneto, in particolare nella programmazione serale che si chiama Blu Radio Sera, un nome altrettanto originale, oserei dire. Vero Maurizio, buonasera. Esatto. Io sono Flavio Bilato, il 19 di luglio, fuori sta quasi tentando di piovere, e più tardi sapremo anche le situazioni meteorologiche, quindi ci sarà qualche corridore che si fermerà sotto qualche frasca, aspettare che spiova, e visto che ha il Walkman a portata di mano, naturalmente sarà aperto al mondo e starà ascoltando sicuramente Blu Radio Veneto, e quindi lo ringraziamo per questo, e se passa di qua lo asciughiamo poi. E allora, puntatona speciale anche questa di martedì, perché come ormai abbiamo abituato i nostri ascoltatori da tempo, c'è il live anche in questa serata. E per questa sera che abbiamo invitato, Maurizio? Abbiamo invitato, e sono molto contento, lo rivedo dopo un po' di tempo con un disco nuovo. Buonasera Giorgio Barbarotta. Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori. Bene? Molto bene, grazie. Ti vedo in forma, ti vedo in forma. Te l'ho detto molto prima di cominciare, che questo secondo me, ripeto, lo ribadirò nell'arco della trasmissione, è migliore il tuo disco. Ma, grazie mille. A mio parere. Sì, grazie. Il disco migliore, nel senso che è l'ultimo. Va parlato assolutamente bene di questo disco, ma non dimentichiamo che Giorgio al suo attivo ha anche altrettanto belle produzioni, insomma, tu le hai contate sulla punta delle dita, erano tre. Erano tre più questa quattro, sì, totale. Quattro, bene, questa dell'esperienza solista, però ricordiamo che tu sei partito ben prima. Con un'esperienza che ti vedeva protagonista con un altro gruppo, sì, Quarto Profilo, sì, a metà degli anni 90, sì. Un rock trevigiano, assieme agli Extra, sì. C'eravate voi praticamente. Sì, Quarto Profilo Extra, sì. Con un successo buono, direi, buono molto, che andava al di là del trevigiano sicuramente, e anche Radio Fiera, e Radio Fiera, sì. I tre gruppi principali di tre. Poi Giorgio Giulio Casale, sì, ha scelto altre strade, sì. E adesso si sta occupando più di teatro che non teatro, di teatro, musica, canzone, teatro, sì. Canzone, sì, sta facendo questo percorso, è un amante anche di Gaber, sì, esattamente. Ecco. E invece Giorgio Barbarotta dai Quarto Profilo, quattro album, poi parleremo anche di altre vicissitudini artistiche, quali libri, poesie, ho visto un po' di tutto, Giorgio. Si lavora, ci si dà da fare. Allora, in questo 2011 c'è questo album, un album formato da 11 canzoni, un album che si intitola Snodo. Come, sì. Mai questo titolo, Giorgio? Ma è una parola che io ho cercato per diversi mesi, un po' con il lanternino. E credo sia l'unica parola che avrebbe potuto in qualche modo rappresentare bene un album di questo tipo. Un album molto eterogeneo, confluiscono in quest'ultima opera una serie di influenze, di anime, chiamiamole, che fanno parte di me da sempre. C'è l'anima più rock, più ritmata, più anche aggressiva in qualche forma. C'è l'anima più folk, più gioiosa, celebrativa, degli aspetti positivi della vita. C'è un'anima cantautorale, c'è un'anima un po' più rock, c'è lo stare affacciati alla finestra del mondo, e c'è anche invece la ricerca all'interno di sé. Quindi un disco che va da rock a folk a blues, c'è un po' di tutto da ascoltare in queste 11 tracce. Sì, io in genere quando presento i miei album, che alla fine sono un po' una commissione di vari generi, faccio sempre fatica a da un lato descriverli e dall'altro a trasmettere in qualche modo il fatto che non è un potpourri di cose che sono scollate fra di loro, cioè fanno parte come uno snodo, sono solidali, no? Fanno parte tutte quante poi alla fine dello stesso ceppo d'origine. Ecco, comunque poi Maurizio te le elencherà e te le, come dire, settorialirà, come si può usare la parola, te le renderà settore. Sì, rock, possiamo utilizzare in determinati eventi, certo. Però tu hai anche detto in una intervista molto bella questo, sono due elementi indipendenti, il rock e il folk, ma sono solidali entrambi, come tu hai ripetito, perché fanno parte di me. Esatto, sì. Questo è fondamentale, fanno parte di te, cioè tutte e due facce diverse, però confluiscono in uno stesso modo di far musica. Sì, può sembrare così di primo acchito una rivendicazione autorale, ma in realtà alla fine è una presa di coscienza. Ecco, sì. Più che altro, quindi alla fine ci convivo. L'attitudine del rock, se vuoi, è un'attitudine all'energia. Dai, quarto profilo in su, dai. Sì, sì, sì. Esattamente. E poi, tra l'altro, anche i nomi che si citavano prima di una certa scena trevigiana da metà anni 90 in poi. Sì. E secondo me hanno indubbiamente influenzato, forse anche si sono influenzati fra di loro e hanno portato appunto a questo risultato nel caso mio, perché ovviamente dove hai un ambiente stimolante, dove anche chi ti sta attorno fa qualcosa, e alla fine ne risulta anche per te un po' di come posso dire, sale in più, no? Certo, certo. Ma dal punto di vista grintoso, questo è un album molto grintoso, secondo me. Hai superato determinati scogli, determinate vette, ma volutamente l'hai messo così. Ma io lo penso così, io l'ho sentito così. Sì. In certi momenti è molto grintoso, molto forte, molto potente. C'era l'esigenza da parte mia di volere affiancare, come dicevo prima, degli aspetti più positivi, solari, vitali, ad altri che invece rappresentano in qualche forma l'altra faccia della medaglia, cioè certo, degli aspetti del vivere anche quotidiano un po' più oscuri, cose apparentemente distanti ma che in realtà con... non solo i mezzi di comunicazione e la globalizzazione, dico cose anche abbastanza in questo caso scontate, ma anche con i collegamenti che ci sono, no? Adesso, sì. Adesso sono invece molto, molto vicine fra di loro. E allora in tal senso, non so, ad esempio accanto a un brano come Sinfonia di Maggio, che è bellissimo a mio parere, è molto molto folk, è molto tradizionale, che è caratteristicamente folk e certo, celebrativo, certo, lo dice anche il titolo stesso. Sì, prendi. Ce n'è alcuni altri, cito ad esempio Podere 41, che è una canzone invece dove si va a cogliere uno degli aspetti dell'oggi italiano, per dire, più oscuro, più negativo, più drammatico, che è quello della raccolta dei pomodori, sì, nel sud Italia, e di tutto quello che riguarda appunto i lavoratori in nero, lo sfruttamento, eccetera, eccetera. Allora, adesso abbiamo già capito un pochettino di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un CD che si intitola Snodo, l'ultima produzione di Giorgio Barbarotta. Però direi che potremmo farlo ascoltare anche i nostri ascoltatori, e iniziando da quella che è la traccia numero 2, che è anche una traccia di quelle che fanno da traino al disco, possiamo dire così, Giorgio? Sì, è il singolo, si chiama Noi, non l'ho scelto a caso, nel senso che rappresenta appunto le varie anime, confluiscono tutte lì. È un brano che è un brano rock, ma è un brano anche folk, è un brano che in qualche forma è di presa di posizione nei confronti del rapporto fra l'uomo e la natura, l'uomo e il mondo in cui è calato. Certo. Allora ce l'ascoltiamo? Volentieri. E poi torniamo a commentarlo qui insieme a Giorgio Barbarotta negli studi di Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Tra gli abissi fino alle vette, lungo i cieli, negli oceani, c'è una pista che porta a noi. Ovunque lasci il segno, ovunque il nostro mondo, quando si infrange l'onda, noi siamo scoglio e spuma, quando la terra trema, noi siamo pietra e lava, e quando il fuoco consuma, noi siamo legna che arde, il fumo denso nell'aria, soffiato via. We'll be right back. pezze di cemento, nell'acciaio, nell'asfalto, nel frastuono dei cannoni c'è una firma scritta al nostro pugno. Ovunque esiste un varco che parli al nostro tempo, quando si infrange l'onda, noi siamo scoglio e spuma. Quando la terra trema, noi siamo pietra e lava. E quando il fuoco consuma, noi siamo legna che arde, denso nell'aria. Quando si infrange l'onda, noi siamo scoglio e spuma. Quando la terra trema, siamo pietra e lava. E quando il fuoco consuma, noi siamo legna che arde, il fumo denso nell'aria, spazzato via. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora buonasera a tutti, benvenuti in frequenza. Siete sempre su Blu Radio Veneto all'interno della sua programmazione serale. Questo speciale live che vede protagonista Giorgio Barbarotta. L'abbiamo ascoltato con la traccia numero 2 del suo ultimo CD. Si intitola Snodo l'album, e invece la traccia 2 si intitola Noi. Come mai questo titolo così al plurale, Giorgio? Perché è un titolo collettivo, quindi richiama, diciamo, all'orecchio dell'ascoltatore. Sì. L'idea comunque di trovarsi coinvolto in un qualcosa di più ampio, un'appartenenza, diciamo. Che poi è una cosa bellissima quella che dicevi tu durante la canzone, dello scoglio e della spuma. È un qualcosa che si incontra, si amalgama e poi si lascia. Quindi la spuma che lascia un qualcosa di sé allo scoglio. Sì. Mi piaceva da un punto di vista proprio poetico questa rappresentazione, perché uno ha la fissità e la solidità dello scoglio da un lato, no? E la leggerezza e anche, se vuoi, l'evanescenza, la fugacità, no? Della spuma. È un po' effimera la spuma, no? Sì. E rappresenta, secondo me, due belle facce della realtà. Tra l'altro, poi il brano è stato ispirato da, insomma, tutta una serie di eventi che conosciamo benissimo tutti, che vanno dal terremoto dell'Aquila, e quindi per quello dove la terra trema, tsunami e sciagure varie. Tutto questo non per, diciamo, servirsi in maniera negativamente maliziosa di cose che ovviamente hanno scioccato tutti, ma più che altro perché c'è, secondo me, la necessità un po' di recuperare un certo rapporto con la natura, la madre terra, insomma, chiamiamola con... Musicalmente è un pezzo con molta rincorsa. Tu corri continuamente in questo pezzo. Poi c'è Giulio More qui presente. Buonasera Giulio, che buonasera. Ti ha seguito anche qualche anno fa, sei venuto qua con lui anche qualche anno fa. Inizia dall'input con l'assolo. Adesso mi parli un momento dell'assolo che hai fatto in questo pezzo. Vai davanti al microfono, grazie. Giulio è un ottimo chitarrista, ma è molto timido. Apparentemente. In realtà è un gran compagno. L'idea dell'assolo, Giulio, che hai fatto in questo pezzo? Parli del tema iniziale? È il tema iniziale, sì, esatto. Bah, lì è stato abbastanza semplice, è partito tutto da un'idea di Giorgio, aveva in mente questo tema. Ma tu l'hai sviluppato? L'ho sviluppato per portarlo a quello che alla fine è finito nel disco. L'arrangiamento di chitarra in questo pezzo è abbastanza complesso, cioè... Ci sono tre o quattro tracce di chitarra elettrica e la 12 corde che dà con la sua ritmica incalzante dà proprio la spinta, la corsa di cui parlavi tu prima. Certo, da questa sensazione effettivamente. E deve entrare nel cervello della gente, giustamente, essendo, non perché è il singolo, perché deve essere così, al di là che è stato scelto il singolo o no. A me era venuto in mente qualcosa di morriconiano. Può anche essere, può anche essere. Sì. Che poi è confluito nella mia sua fantasia con alcune situazioni musicali che apprezzo molto, ad esempio Calexico, che comunque si chiama, no? Sì, certo. Calexico, poi c'è un brano bellissimo dei Noir Désir che è Le Vent nous portera. Le Vent nous portera, sì, bellissimo. Mi piaceva molto, ma anche cose più recenti. Che poi, tra le altre cose, adesso che tu hai nominato i Noir Désir, ho visto un qualcosa di Noir Désir anche all'interno del video di Noi. Oddio. Non tanto legato alla spiaggia, ma un po' questo diciamo, questo noir, possiamo dire così? Credo nel caso specifico del tuo del video, riferimento, sì, del riferimento, che sia del tutto casuale. Sì, certo. Perché poi alla fine l'ispirazione per il video, tra l'altro ricordo regia di Daniele Conti, potete trovarlo anche su YouTube, Noi Giorgio Barbarotta, è stato ispirato al film di Kinky Duke Ferro 3. Ah. Che è un film che gli appassionati di cinema conoscono, è un film in cui c'è un'intera sequenza in cui il protagonista viene incarcerato. Okay. E da lì io ho fatto una scelta abbastanza inconsueta, cioè ho deciso di non comparire all'interno del disco, quindi scusami, del video, rifuggendo quindi completamente quella che è sua l'immagine classica del cantante o del cantautore che è lì e canta, eccetera. E ci sono due protagoniste femminili, una rappresenta, come si diceva prima, la madre terra che è incarcerata, che subisce una serie di vessazioni, di pestaggi, eccetera. E l'altra, protagonista femminile, in una sorta di specularità, che è appunto la carceriera, e rappresenta invece l'uomo in questo rapporto conflittuale. E c'è anche, come si chiama? McDowell, si chiama quella cantante... Anche quella, hai ragione, anche quella ha un ritmo, una tradizione si folk, sì, abbastanza folk, velocizzato. Il singolo di Annie McDonald proprio abbastanza velocizzato con il folk dentro, sì. Ma poi ti rivelo una cosa, con questo chiudo. Alle volte mi succede spesso, no, di passare attraverso canzoni precedenti sviluppandole come se fossero una sorta di palestra. Ah, ho capito. Ok. In realtà c'è una canzone che si chiama Il cacciatore di sogni, dell'album precedente, che è Verso Est, che ha un ritmo molto simile. E mi piaceva talmente tanto quel ritmo che mi è parso naturale svilupparla. Cioè, è come dire, non lo so, penso agli SDC, ma il primo nome che viene in mente, fanno sempre lo stesso. Sì, è vero. Quattro quarti da. È vero. No, non è esattamente la stessa però, canzone, insomma, però sviluppi idee. Sì, sì, cioè, abbiamo capito. Cioè, nel percorso, è una cosa interessante che ti interessava di ricordare, sì. L'hai modificata, cioè l'hai creata nuovamente, però con un certo input, con un certo collegamento musicale. Sì, sì. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che oltre che in presenza audio siamo anche in presenza video, ci sono le nostre webcam puntate sui protagonisti, quindi su Giorgio Barbarotta e chi lo accompagna in questa serata, quindi Giulio Moro alle chitarre. E visto che ho nominato anche Giulio per la seconda volta e l'ho nominato anche per la presenza della sua chitarra ben imbracciata, direi che potremmo partire anche con un primo pezzo live, Giorgio. Va bene, volentieri, possiamo fare, visto che si parlava di folk, un pezzo folk. Esatto. Questo si chiama Galleggiando in provincia. Bene. Ok, galleggiando in provincia, su una zattera stanca, ci si arrangia al meglio, si vivacchia, si arranca. Galleggiando in provincia, nei meandri del mondo, tutto appare distratto, messo a fuoco per sbaglio. sotto braccio e andiamo a fare un giro. Una notte all'addiaccio da mozzare il respiro. Prendimi su in carrozza e portami lontano. Nel bagliore del lampo, col fragore del tuono. Galleggiando in provincia, come un dolce naufragio, ci si aggrappa alla vita, ogni istante è un prodigio. Galleggiando in provincia, più che un mare è uno stagno, e ogni goccia che brilla balla al canto del cigno. Prendimi sotto braccio e andiamo a fare un giro. Ghiaccio da mozzare il respiro. Prendimi su in carrozza e portami lontano. Nel bagliore del lampo, col fragore del tuono. Prendimi sotto braccio e andiamo a fare un giro. Una notte all'addiaccio da mozzare il respiro. Prendimi su in carrozza e portami lontano. Nel bagliore del lampo, col fragore del tuono. E portami sulla groppa del tuo cavallo alato, lungo l'orsa maggiore, dentro il cielo stellato. Siedimi sulle trame del magico tappeto, dalle fiabe d'Oriente in esilio forzato. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, prima canzone live di Giorgio Barbarotta dal suo album, si intitola Snodo. Prima abbiamo detto ai nostri ascoltatori che si può anche collegarsi via video, non abbiamo spiegato esattamente come. È molto semplice, basta andare al nostro sito internet bluradioveneto.it e cliccare all'interno della notizia riservata a Giorgio Barbarotta, c'è scritto segui il video, cliccate lì e siete dentro al nostro mondo radiofonico, videofonico. Sì, dobbiamo anche sottolineare che le telecamere sono curate dalla Chiara, che cura anche le fotografie stasera, quindi ringraziamo anticipatamente. Salutiamo anche il nostro direttore, sì, artistico, esattamente, Alberto Prisco e salutiamo anche la Rossella, che ogni giorno mi offre da leggere quotidianamente la mia edicolante, la tua edicolante di fiducia, esattamente, che è il primo giornale in assoluta che una persona prende all'interno di un'edicola. Quello è Maurizio, esatto. Quindi, l'edicola apre alle 7, lui è là già a meno 2 minuti alle 7 che aspetta aspetta l'apertura. Ritornando a questo pezzo, è proprio un pezzo, questo l'avete fatto proprio folk al 100%. Giulio ha dato proprio una fisionomia folk, e poi una cosa che forse gli ascoltatori hanno visto, io ho visto chiaramente, è stato un tuo sguardo, un tuo momento, vi siete accordati immediatamente anche col tamburello, la stessa cosa, perfetto, non c'era niente di è tutto ok, un live senza nessuna sfasatura, secondo me. Beh, intanto grazie. Okay. Io ho visto immediatamente che l'accordo era perfetto. Ma io devo essere sincero, vorrei spendere appunto due parole per il musicista che mi accompagna, per piaggeria, eccetera, ma proprio per puro piacere. Nel senso che quando mi permetto di usare questo verbo, scoprii Giulio, che in realtà mi accompagna fin da giovanissimo, aveva 17-18 anni, 18, credo. Forse. Ecco. E lui assisteva, no, in palco a tutte le esibizioni, cambi di chitarra eccetera, ci aiutava eccetera. E a un certo momento io mi accorsi di come un po' alla volta avessi di fianco un signor musicista che appunto stava crescendo con dei gusti e come posso dire, la capacità di indirizzarsi verso mondi che apparentemente stridono con delle giovanità, ma che in realtà poi alla fine sono del tutto, come posso dire, perfette, calzanti eccetera. Mi riferisco al mondo del folk, al mondo del rock folk degli anni 70, e da là abbiamo sviluppato questo rapporto di collaborazione e continuate ancora, è benissimo che adesso... assolutamente sì. Oltre a Giulio, che è qui presente, chi ti ha dato una mano nella costruzione di questo disco, chi è stato in sala, in studio con te a suonare? Ma i miei musicisti dal autunno 2004 in poi, quindi sezione ritmica Nicola Accio Ghedin alla batteria, l'ex batterista degli Estra, certo. Oppure il batterista degli Estra finché gli Estra saranno in questa pausa infinita. Sì. Ok. E Stefano Andreatta al basso, che è bassista anche di Mano d'Opera e degli Warte, un musicista eclettico, fa jazz, fa folk, cioè. E quindi questa volta ho affrontato lo studio con proprio il nucleo della band live. I quattro praticamente. Sì. Cioè tre più uno, tre compreso te. All'osso, esatto. Sì. E il quattro è il numero, non dico ideale, ma quasi perfetto per una band. Il numero perfetto sarebbe tre, ma il tre non è possibile, il quattro praticamente. Questo è il numero perfetto, anche se un po' spostato, possiamo dire questo. Bene, allora prendiamo un po' di fiato, visto che prima ha cantato, adesso diamo spazio a un altro pezzo del disco. Abbiamo scelto la traccia numero 6, che si intitola Dalla Marea. L'ascoltiamo e poi torniamo qui in diretta dagli studi di Blu Radio Veneto. State con noi. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Che oggi sia un giorno di pesce buono. Dicono di Sean che non è tornato più, che dalla cresta dell'onda all'abisso profondo se l'è inghiottito il mare. Sale la marea, scende la marea, dove l'acqua è più scura calerò la rete. Raccontano in paese la sposa di Sean lo stia ancora aspettando anno dopo anno sulla riva del mare. Conduci mio signore su rotte più sicure. Benedici i miei cari. Sale la marea, questa piccola barca come mio nonno e mio padre, a largo nella nebbia qualcuno dice che una luce lontana mandi segnali d'aiuto tra le ombre del mare. Conduci mio signore su rotte più sicure. Benedici i miei cari. Conduci mio signore su rotte più sicure. Benedici i miei cari. Sale la marea, scende la marea, tra gli scogli e la schiuma rotola il nostro destino. Mormorano i vecchi che sola nella notte può incontrare una donna di bianco vestita nei dintorni del faro. Conduci mio signore su rotte più sicure. signore, su rotte più sicure. Benedici i miei cari, sale la marea, scende la marea, fa che oggi sia un giorno di pesce buono. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. The tide is high, dicevano i blondi a quel tempo. Dalla marea, questo è Giorgio Barbarotta dal suo ultimo disco che è venuto qua a presentarci, anzi lo ringraziamo per essere qui con noi. Grazie e per essere anche dotato di strumentazione per regalarci qualche pezzo live. Questo Dalla marea, allora vogliamo capire qualcosa di più. Tante cose c'è nel disco, che poi scopriremo anche come entrarne in possesso. C'è anche un bellissimo libricino da cui prendere appunti dei testi, che sono delle poesie poi alla fine. Beh, intanto ti ringrazio. Sì, ho curato particolarmente anche in questo caso il packaging, si chiama, no? Quindi un disco in digipack, quindi cartonato, con un booklet, quindi un libricino di 16 facciate, l'artwork per continuare di questo... grafica e styling, no? Sì. Stati curati da Serena Conti, ok, è un'artista trevigiana. E tra l'altro, non solo ha curato tutta la parte estetica, ma nella copertina del disco, per chi vede via web, la stessa riportata su questi manifesti alle mie spalle, compaio io vestito con un abito composto dalle parole ricamate a mano, una a una. Presenti all'interno delle canzoni, quindi un lavoro mastodontico, certosino. sì esattamente. Dalla marea è il primo pezzo che ho scritto per questo album. È una canzone a cui tengo molto da un punto di vista, come posso dire, di scrittura, perché è abbastanza tipica, si muove su tre livelli del tutto distinti fra di loro. Ce n'è uno che si reitera, e si reitera questo sale la marea, scende la marea. Questo invito, questa sorta di esortazione, di preghiera, fa che oggi sia un pesce buono e conducimi, oh Signore, eccetera. Ce n'è un altro che invece riguarda questa leggenda di mare, di questo pescatore che come tanti altri non è più tornato. Faccio riferimento alla vita delle isole Aran, che ci sono in Irlanda. Ho avuto modo di fare un bellissimo viaggio. E poi c'è il terzo livello, che è appunto la storia di questa specie di luogo, di questo porto, eccetera. E quindi mi piaceva strutturalmente giostrarmi su tre livelli narrativi diversi, che è una cosa abbastanza inconsueta. La canzone poi credo sia la più complessa a livello armonico. Sono presente dell'armonia di flauti, ci sono una, due, tre, quattro chitarre, Giulio credo. Alla quarta Giulio... ha smesso. No, continuava a chiedermi, non so più che cosa fa. No, non c'è più spazio, cosa vuoi che inserisca? Invece avevo delle noticine, delle cose in testa che ho inserito. Sì, una canzone che... trovo completa, ecco, questo, sì, nella mia testa. Noi abbiamo trasmessa per circa 2 mesi, perché io l'avrei scelta, a mio personale parere, come singolo. E io l'avrei sentita così, perché è molto... ti fa andare avanti, cioè ti trasporta. Sì. E non è un pezzo semplice, bene, forse più immediato noi, può darsi. Io penso sia sempre il perenne dubbio dell'artista, quale quale metto a trainare. Però questa era la prima che hai scritto, però tu hai detto. Sì. Ha delle caratteristiche particolari, c'è una sezione ritmica che viaggia a dei livelli veramente molto alti di densità. Appunto, e quella è fondamentale densità. Per essere un singolo, secondo me. Credo di sì. Però avevo il timore che potesse dare l'idea di un album molto cupo. Ah, ho capito. E quindi la cosa mi sarebbe dispiaciuta, proprio perché presenta di diversi input molto distanti l'uno dall'altro. Mentre invece Noi era più equilibrata. Sì. Non era né una canzone cristallina, solare, eccetera, ma neanche scura. Era ritmata, ma non era aggressiva. Aveva anche, da un punto di vista di scrittura, una penna poetica senza risultare troppo ermetica. Una serie di caratteristiche. Addirittura l'ufficio stampa mio, Lunatic, avrebbe preferito Sinfonia di Maggio. Ah. Che ascolteremo più come avanti. Scrittura, sì. Sì. Sì, sì. Quindi ne parliamo. Alla fine ho scelto noi. No. Ma hai scelto te e noi, sì. Oppure hai scelto te, insomma, praticamente. Con la pistola puntata. No. Con grande serenità. Va bene. Allora, con grande serenità e determinazione. Soprattutto questo. Ascoltiamo anche un altro pezzo live questa volta. Cosa ci propone Giorgio? Cosa abbiamo detto che... Ah, possiamo fare il pezzo d'apertura, volendo, che è un po' più... Ok. Rock. Quindi il pezzo d'apertura che si intitola Buone Nuove. Buone Nuove, sì. Forse non basta, forse non serve vivere bene. Forse il coltello e la lotta danno di più. Se fossi stato meno cullato dalla corrente, avrei sposato ragioni diverse da noi. È scritto nei titoli, buone nuove in prima nuovo mondo. Così veloce, così rotondo, che riesco ancora quasi a crederci, a tutti i tuoi buoni propositi. Ridere forte, ridere sì, non fare l'indiano. È una questione d'umore e non un antidoto. Hai seminato perle di slogan tra le bandiere, dando lezioni di stile e demagogia, e impugni le redini, buone nuove in prima al nuovo mondo. Così veloce, così fecondo, che riesco ancora quasi a crederci, a tutti i tuoi buoni propositi, buone nuove intona l'eco del mondo. Stiamo viaggiando nello spazio profondo, ti chiedi mai con quali esiti, se pensi a certi nostri simili. Stiamo viaggiando nello spazio profondo, ti chiedi mai con quali esiti, se pensi a certi nostri simili, buone nuove in prima al nuovo mondo, hanno sventato un attentato tremendo, è tanto folle quanto ignobile, che l'uomo è lupo tra le pecore. Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato l'esperienza live che ci ha portato ad ascoltare Buone Nuove, questo brano d'apertura dell'ultimo lavoro di Giorgio Barbarotta che si intitola Snodo. E ancora un benvenuto a Giorgio e al suo accompagnatore Giulio alle chitarre. Grazie molto. Dimmi. È un brano, sì, che nel disco è elettrico, certo, fortemente, certo, ritmato. E anche per niente comincia il disco con un pezzo elettrico, mi pare giusto che sia così. Sì, è un pezzo che ho scritto quando è stato assegnato il Nobel per la pace a Obama, che mi è apparso una sorta di cortocircuito. Niente, molto semplicemente questo. E allora alla fine questo Buone Nuove, se vuoi anche... volutamente sarcastico, pone l'attenzione su, sì, su una situazione parossistica, no? Sì. Cioè, indubbiamente un presidente che ha fatto e sta facendo delle cose molto importanti, penso alla riforma sanitaria in primis, che tra l'altro è stato un suo cavallo di battaglia anche in campagna elettorale, e penso poi a una potenza mondiale che poi alla fine ha fatto anche dell'interventismo uno dei suoi forti pilastri, per cui mi pare una cosa quantomeno strana, no? Curiosa l'idea di assegnare forse una sorta di senso di incoraggiamento, ecco, può darsi quello, sì. Poi da là mi sono interrogato sul rapporto dell'uomo comune, quindi il sottoscritto, con i potenti. E quindi la canzone è nata così. Per conoscere qualcosa di più di Giorgio Barbarotta, dopo averlo ascoltato qui all'interno dei nostri studi, si può naturalmente anche viaggiare via internet e andare sul suo sito, dove potrete vedere altre curiosità legate a Giorgio. Quindi giorgiobarbarotta.it, questo è l'indirizzo del sito. E tra altre cose, una particolarità che mi è rimasta veramente all'occhio è la presentazione della tua biografia, che non è scritta solo in italiano, in inglese, in spagnolo o in francese, ma c'è anche un carattere cinese. Particolare, cinese. Sì, il cinese. E quindi volevo capire come mai già si parte da una produzione cinese, mi sembra di capire. Sì, il disco precedente, sì, che si intitolava Verso Est, è un disco che ho prodotto in Cina, a Pechino, in collaborazione con un'agenzia che si chiama Indie China, e anche grazie alla coproduzione di Tommaso Previato, che è un caro amico, un insegnante all'università, una delle università di Pechino, insegna italiano, il quale in prossimità del tour che io ho fatto in Cina nel 2009, eravamo sia io che Giulio che gli altri musicisti, appunto in quell'occasione ho pensato di produrre una sorta di The Best con un paio di brani inediti, esatto, per così lasciare anche il segno alla fine dei concerti per chi volesse, al pubblico cinese. E come sono stati i concerti in Cina? Ne abbiamo parlato anni fa, però possiamo ribadirlo adesso. Come? Ma è stata un'esperienza favolosa, fantastica, secondo me, soprattutto da un punto di vista e dell'impatto umano-culturale, diciamo, certo, ok, e del dispendio di energie psicofisiche, ma lo dico in senso positivo, perché banalmente le distanze di un paese così sterminato sono degli aspetti di cui tener conto. Cioè, noi avevamo delle date con distanze come da qui a Parigi, ok, e dovevamo muoverci tra l'altro in treno con gli strumenti e i bagagli al seguito. Eravamo in 7-5 musicisti, un cameraman, un fotografo, Matteo Guaraldo e Tommaso, appunto, Previato, che ha svolto anche la funzione di tour manager e traduttore, poverino. Ok, e quindi questo sballottamento continuo on the road, okay, in un paese in cui pressoché nessuno parla per strada, diciamo, non so, l'inglese, che è la lingua magari così ponte, no? Ma nemmeno la gestualità viene non compresa, non fa parte proprio dei pilastri culturali di quel mondo. Per cui banalmente un gesto, lo dico anche con simpatia, come poteva essere devo andare in bagno, no? Sì, sì, che per noi è abbastanza istintivo, cioè se uno porta le mani dove, ok, abbiamo capito, vuol dire che serve andare in bagno. In realtà loro non capivano, pensavano boh, magari a qualcosa di osceno, ma non per carenze strutturali, ma perché non fa parte della loro cultura la gestualità. Ma pensiamo anche alla stretta di mano, che molti viaggiatori che sono stati in Cina per lavoro, visto che se la sono ritrovata mozzata. No, Giulio fa riferimento alla cucina cinese, che è un mondo a sé, anche quello straordinario, straordinario. Fa riferimento a Fantozzi, lui, quello, quello fa riferimento. Guarda, a tal proposito, mi ricordo una volta qui abbiamo ordinato degli spaghetti di riso in brodo, era una cosa del genere. E ci arrivò, così come da noi qui nel Veneto, no? Tipo prima dei famosi anni Ottanta, no? Ci arriva proprio la terrina con dentro il brodo, e nel brodo l'intera gallina con tanto di testa, zampe e tutto qua, sì. E piume e penne, sì, sì. Vabbè. Oppure le zampe di gallina che sì. loro cucinano, che è un po' come una volta la cucina tradizionale, certo. no? contadina nostra, è solo che lì te le porti, portano un vassoio di zampe di gallina, che è la cosa così quantomeno suscita nelle persone sì, più sensibili un attimo di movimento, il movimento sì, esattamente sì. Però cioè, è impossibile secondo me al giorno d'oggi non interfacciarsi in qualche modo con l'universo Cina, basti pensare ai mondiali di nuoto, forse certo che stanno facendo proprio adesso cagnotto. Esatto. Beh, ha vinto una medaglia, quindi è stata brava. Sì, nonostante sia caduto anche in motorino. Sì, un po' di mesi fa è caduto in motorino, ha avuto un incidente molto grave, 30 punti di suttura su un ginocchio. E sì, però suo papà è sempre stato molto positivo, infatti è anche il suo manager, sì, no? esattamente, il suo preparatore atletico. Ma lei è bolzanina, è dura, è tenace. Vabbè, allora... torniamo a bomba ad ascoltare il CD di Giorgio Barbarotta, ancora il suo ultimo, si intitola Snodo. Spazio anche a quella che è la traccia numero 7 del CD, che si intitola, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sinfonia di Maggio. Allora l'ascoltiamo e poi torniamo a commentarla insieme. Lura di Ossera. Blu Radio Sera. Sveglia amore, sveglia, avanti, vestiti, che fuori c'è una meraviglia, roba da non crederci, fatti coraggio. È già di nuovo maggio. Occhi di Madonna e grano nuovo, una vertigine lontano, il sole scalda di profumi il proprio raggio. E veste ancora maggio. Nei giardini tra le ortiche è festa, sono tornate fuori rose e fiori e prati alla finestra, gode il paesaggio. Perché di nuovo maggio. E parlo anche di noi. E parlo anche di noi. E parlo anche di noi. Buon compleanno. Giornate chiudono in ritardo e le ciliegie di corallo a cavallo dell'azzurro rendono omaggio a questo nuovo bacio. Schiere di fedeli con le ali fanno numeri immortali, gazze, passeri e rondoni all'arrembaggio. Volo sopra maggio. E parlo anche di noi. E parlo anche di noi. E parlo anche di noi. Buon compleanno. Ferriate, messa a gara coi balconi, tra canali e passeggiate, il glicine in vantaggio, è sinfonia di maggio, è sinfonia di maggio, è sinfonia di maggio. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un incalzante rullante a fare da sponda a una banda musicale per questa sinfonia di maggio, perlomeno così è la descrizione che hanno dato le mie orecchie. Giorgio Barbarotta, l'ho interpretata giusta? Sì, sì, va benissimo. Quanta fatica per questa canzone. Sì, tanto difficile. Tantissime. Ogni ascolto che ho fatto di questa canzone ho trovato sempre cose nuove all'interno. Di arrangiamento, sai, sì. Proprio di produzione, perché era nata, cioè strutturalmente è rimasta quella. Mi riferisco a BPM, testo, tonalità, eccetera, eccetera. Forse l'ho spostata. Forse l'abbiamo spostata. Sì, però insomma è stato fatto un grandissimo lavoro, perché continuavamo a girarci intorno e continuavo a non sentire l'anima, no? Il vestito, per meglio dire, capito? Che calzava perfettamente su questa bella, direi anche signorina, però ogni scarafone è bella, per cui sono di parte. Alla fine mi è venuto in mente, anche grazie ai continui confronti anche con Federico Picci, che è uno degli ingegneri del suono con cui ho lavorato, tra l'altro batterista per l'avventura cinese, in sostituzione di Accio che aspettava il secondo genito. Ok, e mi è venuta in mente questa cosa scozzese, così. E alla fine anche richiamo un po' quei mondi di spazi aperti, di verde, di gioiose celebrazioni, no? A me è ricordato, te l'ho detto prima, adesso lo possiamo dire in trasmissione, qualcosa dei vecchi Gang. La Gang è un gruppo straordinario, dei fratelli Severini, sì. Bravissimi, straordinariamente innovativi per l'epoca e molto folk. Questo è un pezzo folk, riveduto corredo da te, un pezzo folk tuo chiaramente, però qualche input lontano con la Gang, io posso dirlo, mi assumo tutte le responsabilità. Ben volentieri. Tra l'altro ci sono dei flauti, voglio sottolineare anche il fatto che Stefano Delatta, che è il mio bassista, suona il basso, sì. Come, fra virgolette, secondo strumento, perché lui in realtà nasce come flautista traverso, per cui. Bene. Ho detto facciamola questa cosa. Una jam session in piccolo praticamente. Com'è? Una jam session in piccolo avete fatto. Sì, sì. No, non ho cambiato niente in registrazione. Dei due assoli che ha fatto alla fine, che si sormontano, si intrecciano, non ho toccato niente perché mi parevano espressivamente già compiuti. Sì, perché c'è un'atmosfera molto free, molto libera questo pezzo, esatto, secondo me. Quello è indice di ste cose, secondo, a mio parere, ho sentito così. Bene, allora direi che è tempo anche di ascoltare un'altra canzone, questa volta sempre live, Giorgio. Ah, sì, sì. Cosa facciamo di bello? Allora. E ci sta interrogando Giulio. No, perché avrei voluto fare riasciembrogliare il tempo, ma credo che. Ma deve accordarsi. Un'esigenza. Sì, ma si accorda in diretta, lo vediamo, che problema ci sono. Non c'è nessun problema. Perfetto. Cassetto e noi due sul letto, ad intrecciare il fiato, con come braccia accese, strette tra le mani, le mani hai sciolto molti nodi, quante volte basta soltanto un buon motivo, dove le radici affondano, dove i corpi si mescolano, laddove i conti tornano, riesci ad imbrogliare il tempo, dove l'alba si nasconde, dove l'ombra si confonde, laddove il cuore ci sorprende, riesci ad imbrogliare il tempo. Prendo il tuo sorriso, ho conosciuto il gusto, nel piglio tuo deciso, in equilibrio giusto, e abiti di stoffe cuciti e fatti a mano, e miele, arance, spezie che portano lontano, la lealtà rimane da sempre il bene più prezioso. Dove le radici affondano, dove i corpi si mescolano, laddove i conti tornano, riesci ad imbrogliare il tempo, dove l'alba si nasconde, dove l'ombra si confonde, laddove il cuore ci sorprende, riesci ad imbrogliare il tempo, dove le radici affondano, dove i corpi si mescolano, laddove i conti tornano, riesci ad imbrogliare il tempo, dove l'alba si nasconde, dove l'ombra si confonde, laddove il cuore ci sorprende, riesci ad imbrogliare il tempo. E abbiamo ascoltato anche Riesce ad imbrogliare il tempo, è la traccia numero 4 da questo ultimo lavoro di Giorgio Barbarotta che si intitola Snodo e che stiamo percorrendo in lungo e in largo per conoscere qualcosa di più di quella che è stata l'ispirazione artistica che ha portato a, come dire, alla produzione di questo album. Allora Giorgio, come imbrogliare il tempo? È una ballata, la rincorrevo da un sacco di tempo, una ballata così. E, beh, il concetto è anche abbastanza semplice volendo. Ogni qualvolta c'è una sensazione di comunione in senso amoroso, il tempo secondo me si ferma, si cristallizza, può essere un attimo di particolare coinvolgimento passionale, emotivo, eccetera, può essere la condivisione di un momento topico come, non lo so, un'alba, dico per dire qualcosa che comunque evoca qualcosa di ancestrale, e in quel momento là si ferma il tempo se hai la possibilità di condividerlo con qualcuno, e mi piaceva questa idea. Dobbiamo sottolineare una cosa, e lo diceva anche giustamente la Chiara, microfono spento, la difficoltà che ha avuto Giulio cambiando l'accordatura, è un pezzo molto difficile con un vezzo di blues che poi alla fine non c'è più, ma all'inizio c'era, era molto forte secondo me, poi è stato leggermente cambiato, pezzo molto difficile, se dobbiamo ringraziare Giulio, ha fatto un lavoro incredibile, questo è un pezzo estremamente complesso, c'è poco da fare, io l'ho sentito così. so se sei d'accordo, Flavio. Beh, assolutamente sì. No, mi aspettavo un commento di Giulio. Giulio non parla mai, non vuole commentare. Giulio fa parlare le corde, però. Esatto, fa parlare. Cosa c'era di difficile? No? No, niente, assolutamente niente. È baldanza, Giovanni. Lui ha, secondo me, una caratteristica che altri chitarristi non hanno, o perlomeno che in altri chitarristi non è così spiccata, che è il gusto. Punto. Adesso basta, sennò perché come dice Tarantino, no, non dico c'è Tarantino che si entra. Vabbè. Adesso la classica domanda, facciamo intervenire ancora una volta anche Giulio dopo aver sentito Giorgio. Per quanto riguarda gli artisti, diciamo, preferiti, quelli che hanno un po' fatto compagnia durante il percorso musicale, da dove si è attinto qualcosa in più che poi si è fatto proprio. Quindi cerchiamo di capire quelli che sono gli artisti anche legati a quelli che sono gli album, diciamo, più rappresentativi o che si ritiene siano tali. Cominciamo con Giulio o con Giorgio? Con Giulio. Sempre per G, tutti e due in ogni caso. Perfetto, allora parte Giorgio. Nel mio cuore sono sempre indelebilmente impressi le Zeppelin, da sempre. Quali? Primo, secondo, no. Terzo, quarto, tutta la globalità, compreso anche Coda, cioè compreso anche Coda, che è l'ultimo. A livello poi di gusti personali, cito i Black Rose, mi piacciono tantissimo. Qua è il tuo gusto elettrico, elettrico blues, perché Black Rose sono molto blues, elettrici. Sì. Li ho visti anche a Vigevano. Come li hai sentiti? Forti come sempre. Oh, bellissimo, con questo Luther Dickinson dei North Mississippi All Stars alla chitarra, soprattutto a Bottleneck, certo. Eccezionale. E meglio di quando avevano, secondo me, Audley Freed. È stato un gran bel concerto. Bene. E poi cos'altro? Cioè, questi sono i primi due nomi che vengono in mente, però pescherei. Ovviamente io, cantando in italiano, non posso esimermi dall'avere quantomeno avuto la necessità, ma anche il piacere, di fare e di fare della ricerca e di conoscere tutto il mondo del cantautorato classico, ma anche moderno italiano. Mi riferisco anche ai gruppi proprio che sono nati a fine anni 90, che poi negli anni 2000 hanno avuto l'esplosione, molto interessanti secondo me. E poi, appunto, scrivendo in italiano, a mio avviso, per come piace a me scrivere, bisogna continuamente anche buttarsi a capofitto nella poesia, perché sì, ne abbiamo parlato forse anche l'anno scorso, eccetera. Vai, Giulio. Sentiamo i tre Ungaretti, Montale, eccetera, eccetera. Artisti di riferimento. Dici i tuoi tre dischi, Giorgio. Ah, i tre dischi? Southern Harmony and Musical Companion, The Black Rose, così siamo coerenti. Sì. Poi cosa possiamo mettere dentro? Il Dylan, prodotto da Daniel Lanois. Belle cose prodotte da Daniel Lanois. Sempre belle cose. Mamma mia. O Mercy, una dei tanti. E poi cosa possiamo mettere dentro? Un disco italiano. Sì, quale? Un disco italiano. La voce del padrone di Franco Battiato. Bene. Bello tutto quel disco là. Bello tutto, davvero. Allora, Giulio, tocca a te. Hai avuto tempo di pensarci? Lui pensava noi ci fossimo dimenticati. No. Lui, in realtà, butto lì qualche nome. In realtà, ultimamente non ascolto molta musica. Siamo stati qui 2 anni fa e mi rendo conto adesso, ho le stesse preferenze di allora, quindi butto fuori qualcosa di diverso. E Norman Blake, come chitarrista bluegrass, che mi è sempre piaciuto, in realtà, non tanto proprio da chitarrista, ma mi è sempre piaciuto ascoltarlo prima ancora di iniziare a suonare folk, di suonare questo genere di musica qui. E di Norman Blake tirerei fuori un disco che non sono mai riuscito a trovare in CD, perché l'etichetta è fallita. E c'è Norman Blake, c'è Vassar Clements, sì. Sam Bush, un sacco di all star del bluegrass e del jazz. C'è anche Dave Holland al contrabbasso, ed è un disco veramente strepitoso, tutta una lunga jam session. No, ma Blake ha fatto tante cose, tante interessanti e tante partecipazioni ha avuto, è sempre stato considerato. Ha suonato oltre alla chitarra acustica anche il dobro in Nashville Skyline. È vero, Milan, tanto per cambiare, per citare uno che non è un qualsiasi, esattamente. E poi sono rimasto sempre affascinato dalla figura di Al Kooper, che è l'organista ovviamente che suona Like a Rolling Stone in Highway 61. È stata una scelta di Dila, quella là. È stato lui che l'ha voluto assolutamente all'epoca. C'è su YouTube e c'è nel film Don't Look Back in Anger, penso si chiami. No, Don't Look Back e basta. Sì, Don't Look Back. È un'altra roba quella. Don't Look Back è uscito qualche anno fa, in cui Al Kooper racconta proprio l'aneddoto della sua partecipazione al disco di Dylan, e da lì lui, da chitarrista che era, si è trasformato in organista e ha portato avanti i suoi progetti che mi sono piaciuti di più, cioè i Blues Project e poi la Super Session con Mike Bloomfield e Steve Stills e i Blood, Sweat and Tears, il primo disco, certo. Dove non ho poi capito perché lui, da cui è stato lui allontanato poi, perché non piaceva il modo in cui cantava, che in realtà secondo me è molto particolare. E mi ricorda un po' Battisti, ecco, anche Battisti aveva la stessa sorte di essere indicato come uno che non sa cantare. Esattamente. No? Però entrambi mi piacciono un sacco e li vedo un po', ecco, simili, allora. Sì, in parallelo per questo. Io e Maurizio abbiamo preso grandi appunti riguardo a questa conversazione legata agli artisti, soprattutto agli album, quindi io in particolare vi trovo di fare propria qualche bella idea che mi avete dato, insomma, perché ottimo. Si può conoscere tanta musica ma non si può conoscere tutta, e quindi spazi sempre aperti, e grazie anzi sia a Giorgio che a Giulio di averci dato anche dei nomi, diciamo tra virgolette, nuovi, anche se nuovi non sono. Un flash solamente per ricordare, Giulio è stato il primo in assoluto in 5 anni, mi pare in 6 anni, di ha citato Al Kooper, musicista straordinario, però non conosciutissimo, conosciuto solo attraverso i dischi che ha fatto per gli altri. Dobbiamo sottolineare questo. Bene, allora un disco che invece ha fatto per lui, ma non solo per lui, l'ha fatto anche per gli ascoltatori, chi vorrà entrarne in possesso, Giorgio Barbarotta, con questo suo ultimo lavoro che si intitola Snodo. E adesso peschiamo un'altra traccia davvero particolare, un po' fuori dal coro, che però mi entusiasma assai, quindi invito gli ascoltatori ad essere piuttosto attenti di fronte a queste note che andiamo a proporre. Stiamo parlando di Media Grazia, l'ascoltiamo e poi torniamo a commentare. Blu Radio Sera. Lascia che sia mediacrazia, paese che fai, costume che trovi. Bestia nera la mattina, esplode come uno strillone. Carta straccia di giornale ha già infestato la nazione. E di un sentimento guasto, lesto lettere risuona. Guida il cieco e lo zerbino con la sua malsana boria. Dagli schermi come acquari, barracuda e pesce cani, mascherati da sirene, ci divorano le gole. E il tuo docile bambino, come un lesto fante scaltro, già si aggira per la casa, delle peggio sozze intrisa. Lascia che sia mediacrazia, paese che fai, costume che trovi. La notizia di buon'ora picchia duro e non perdona, si diffonde macchia d'olio a piede libero nell'aria. e la cronaca dilaga sotto spoglie di sciagura o di amenità mondana. Per le strade e nelle piazze, pasticcati a colazione, con il fumo in mezzo agli occhi e la testa nel pallone. È il cervello che si piega, curvo come un animale, con il basto sulla groppa, la carota ed il bastone. Vivere non è così difficile, basta uno scafandro e un tuffo in mezzo al blu. Lascia che sia mediocrazia, paese che fai, costume che trovi. Lascia che sia mediocrazia, paese che fai, usanza che trovi. Lascia che sia Radio Sera. Blu Radio Sera. L'avevamo anticipato i nostri ascoltatori, un brano davvero particolare tra quello che potrebbe essere un blues e quello che potrebbe essere un'esperienza, diciamo un esperimento musicale che presenta molte sfaccettature. Mediocrazia, com'è nata questa canzone? Davvero particolare, Giorgio, non ho altre definizioni. Allora, io quando compongo ho una tastierina MIDI, un computer davanti, un sistema informatico Mac, GarageBand, e compongo tutto così. E in questo caso mi sono avvalso di tutte queste cose per la prima parte di scrittura, e la canzone è nata esattamente così. Poi ho visto con una grande sorpresa anche che nel momento in cui l'abbiamo fatta in sala prove tutti assieme, e veniva in maniera molto molto spontanea, e ognuno ovviamente riusciva a mettere, senza venir pungolato, passami questa espressione, il suo apporto dentro la canzone, mantenendo quella che era l'identità un po' psichedelica, un po' di ricerca del brano stesso, e rispettando e dando spessore alla parte espressiva del testo. E quindi alla fine forse il brano più particolare è stato quello nato nel modo più spontaneo, più naturale, più genuino. Però è come dire un attore, io faccio sempre questo esempio, è come dare ad un attore una parte molto definita. Cioè, se a un attore dai una parte altamente drammatica, lui ha dei parametri a cui far riferimento. Se a un attore gli dai la parte di una persona normale, deve un attimino capirsi, credo questo. Sì, un pezzo che declami te, praticamente, non canti, declami, cioè quasi parli. E io l'ho visto, l'ho sentito come un pezzo rumorista alla rovescia. Bellissima questa cosa. Perché il rumorista ci poteva essere, perché sì, con qualche piccolo assolo di chitarra che non c'è, però l'idea poteva essere anche quella di metterci qualche assolo lancinante di chitarra e tu parlavi in questa maniera particolare. L'idea poteva svilupparsi, però l'avete sviluppata in un altro settore, però poteva anche essere così. Sì, dal punto di vista testuale il brano è tutto nel potere mastodontico che hanno i media, certo, quindi certo. È tutto lì. Dal punto di vista strumentale c'erano all'interno della versione elettronica, quella iniziale, una serie di delay, di richiami, di botte e risposta. E sono stati levati o leggermente modificati? No, anzi sono stati... Però messi in che maniera? Praticamente? Beh, nel caso ad esempio della chitarra, Giulio ha collegato un sintetizzatore e ha anzi rinforzato questa parte qua. Nel caso di batterie e basso, e dal punto di vista batteristico è stata smontata la batteria per creare con le parti della batteria stessa un qualcosa di nuovo. Quindi c'è Nicola ha preso un ride, credo. No, un crash. Un crash, un piatto. Sì. L'ha posizionato sopra il rullante e ha ottenuto questo suono del tutto inventato, nuovo. Okay? Flavio è molto interessato, questo qui è un batterista, quindi è molto interessante quello che stai dicendo. E c'era questo beat un po' musica nera, un po' voodoo di D'Angelo, non so se vuoi ascoltare, era un riferimento che avevamo in comune con il bassista, mi ricordo. Cioè, c'era questo beat qua molto profondo. E detto questo, però, io comunque ho sempre l'esigenza che la sassata arrivi da un punto di vista semantico. Perché comunque è una parola, quindi ovviamente in disco questa cosa qua è stata non sacrificata ma un leggermente contenuta. Dal vivo invece ha più beat proprio. Quindi il rumorista è la tua sassata, la tua declamazione praticamente. Sì, è nata spontaneamente in macchina la canzone. Quindi quello a cui fai riferimento, grattando le marce, no? No, poteva essere, scusa. Avevo questa adesso ve la racconto perché voi ridete, ma non è proprio distante, dissimile da quello che si è verificato. Perché io ogni mattina vivo con grandissima ansia, no? L'esposizione, non so se si chiamino ancora strilloni come una volta erano i ragazzini che... Le civette. I cartelloni, sono le civette, ok. Sì. I cartelloni in cui compaiono le notizie di cronaca. Orribili, sempre titoli devastanti, cioè che cominci la giornata con negatività assoluta, no? Che ne so, adesso non faccio, vabbè. Sciagure, cose così, no? Ah, a un certo momento è nato tutto da bestia nera la mattina, bestia nera, no? E allora in macchina, aspetta che mi allontano dal microfono, è nato bestia nera la mattina, esplode come uno strillone, calcando tutte le vocali, eccetera, eccetera. Sì. E là l'interpretazione è venuta da sé, grattando marce. Hai interpretato giusto, Flavio. Giustissimo. Sì, certo. Perché molte volte quando si è un po' agitati nel fronte di qualcuno... L'inserimento, parlo per chi ha ancora le marce tradizionali, c'è anche chi c'ha l'automatico. E vabbè, sono cose che succedono. Vabbè, da Mediacrazia volevo passare un attimino a quella che è anche un'altra tua passione, per la quale hai scritto anche dei libri. Quindi una passione della poesia. Già prima hai citato Ungaretti, hai citato altri poeti. Montale. Ma, Montale, sì. Vediamo, 2007 e 2009, due date importanti dove hai scritto due libri appunto di poesie che si intitolano Tra le pieghe del giorno e poi ancora Era Venere. Come ti sei vestito di queste poesie? Anche questo è un aspetto del tutto spontaneo. C'è sempre stata da parte mia l'attitudine e la propensione alla scrittura un po' in tutte le sue forme, e ho raccolto appunto nel 2007 una cospicua quantità di scritti che avevo. Sono, nel caso specifico del libro Tra le pieghe del giorno, 105 poesie e 9 racconti, e le ho fatte confluire in questo libro. Diverso invece era Venere, perché è un libro nato per il tour cinese, in quanto i cinesi volevano assolutamente un libro da parte mia. Io non avevo né l'esigenza né la possibilità di estrarre da Tra le pieghe del giorno, neanche mi interessava per la verità, un nucleo, una silogia, insomma una raccolta di poesie, anche perché diverse toccavano dei temi per cui sarei stato in difficoltà con la commissione culturale cinese alias censura e quindi siccome avevo diverse produzioni amorose le ho ritenute più idonee all'operazione, anche se vuoi più comprensibili per evitare tutta una serie di impossibilità a livello di ponti culturali che avrebbero reso la cosa quantomeno difficile, ecco, proprio di ricezione da parte dei lettori. Mentre invece fortunatamente cioè, l'amore in tutte le sue forme ci accomuna sia qui che dall'altra parte del mondo, quindi in qualche maniera arriva. Un po' di difficoltà sul passaggio da una lingua all'altra delle metafore, perché per forza di cose, insomma, linguisticamente c'erano degli ostacoli da girare o da superare. Però hanno fatto un ottimo lavoro di traduzione. E tra l'altro nel corso del tour è stato bello, perché in quasi ogni concerto c'era una parte centrale dello spettacolo in cui un lettore occasionale, con cui mi ero messo d'accordo prima del concerto, alternava alla mia lettura interpretativa delle mie poesie in italiano i versi in cinese. E questo veniva ovviamente apprezzato dal pubblico. C'è qualcosa su YouTube che riguarda queste comparse così da segnalare ai nostri ascoltatori? Allora, adesso ti spiego. Allora, YouTube in Cina è vietato. Sì. Ok. Per cui per noi era impossibile, soprattutto per Matteo Guaraldo, che saluto se l'ascolto, che è il fotografo amico cameraman che è venuto con noi, era impossibile caricare su internet, in particolar modo su YouTube. Abbiamo optato per Vimeo, che è un altro canale di streaming video, e siamo riusciti in qualche maniera a caricare qualche parte dei concerti, ma sono parti dei live. E tra l'altro quando eravamo lì, Giulio, di notte, mentre lui caricava questi filmati, spesso saltavano le linee, era molto difficoltosa la cosa. Però c'è un bel filmato che è rimasto. Ci sono due o tre canzoni live che si possono vedere su Vimeo, ma ce n'è uno, credo sia anche su YouTube, che riguarda un episodio per noi, ma credo anche per i passeggeri normali di quel treno, molto divertente, che avvenne in treno, nel treno fra Wuhan e Changsha. Okay. Un tragitto di 4 ore e mezza in cui, siccome i cinesi sono molto curiosi di tutto ciò che è occidentale, in particolar modo dopo degli iniziali tentennamenti dovuti, non so, per educazione eccetera, o anche per timore o per timidezza, ok, cominciano ad avvicinarsi all'occidentale, gli chiedono da dove viene, se appunto scoprono che c'è qualcuno che conosce entrambe le lingue, in quel caso Tommaso. E quindi a un certo momento mi sono visto arrivare una caterva di cinesi, tutti quanti a ridosso, che tiravano anche per la spalla. A un certo momento, per liberarmi da questa situazione, anche perché dovevamo scendere di lì a poco, sì, ho chiesto ai ragazzi se potevamo fare in acustico una canzone. E là è successo il pandemonio. Cioè il vagone si è proprio incendiato. Dovete sapere tra l'altro che in Cina ogni vagone ha il suo capovagone. Ok, quindi c'era il capovagone che impediva a quelli degli altri vagoni di venire a vedere cosa succedeva. E ha creato un putiferio. Poi fermi in stazione, vagone dopo vagone, finalmente siete riusciti a scendere. Sì, no, ma guarda che nel treno notturno ti chiudono. Io facevo fatica a dormire. Certamente ho detto, vabbè, ero con Stefano, il mio bassista, andiamo a mangiare qualcosa. Sì, ne avevo una birra, ok, andiamo nel vagone ristorante. Cerco di aprire, la porta chiusa. Cazzo, ma com'è la porta chiusa? Sì, e vedo dietro al vetro, fermo immobile con le braccia conserte, il capo vagone che mi guarda come, cioè, impassibile, come per dire, ma te pensi di uscire? A quel punto comincio a bussare sul finestrino, sì, finché alla fine ha capito, magari anche mossa dal fatto che fossimo occidentali, perché sono molto rispettosi, e siamo riusciti ad andare a mangiare degli spaghetti di soia con, non mi ricordo, con cosa, insomma, cioè, com'è? Col peperoncino, conoscendo Changsha, che è a 3 ore e mezza di distanza, mi sembra, dal confine vietnamita, io credo abbia la cucina più piccante, che la Calabria al quadrato. Ma cosa ok, hai dato una buona descrizione di come si mangia in Cina, soprattutto da quella parte, e voi avete apprezzato anche questa bontà di cucina. Allora, un altro pezzo live, Giorgio Barbarotta, non perdiamo di vista le nostre canzoni. Cosa ci proponi? Qualcosa extra disco? Sì, beh, qualcosa possiamo fare del disco cinese. Sì, sì, sì, disco, ok, bene. Questa si chiama Il cacciatore di sogni. Tra lenzuola di lino viola in un vortice sparì, nel prestigio dove i pensieri diventano coriandoli, ed armato di leggerezza nel limbo si gettò, inforcando la notte scura tra le maglie dell'avventura. Li ho visti in faccia e sono pallidi gli eterni sogni degli uomini. Hanno polsi di vetro e vene di sangue blu, vesti candide di rugiada e i capelli sporchi di salsedine. Con un guizzo deciso scandito dai palpiti e l'oblio, lievitò fino ad arrivare ai vertici del loro mondo. Lo trovò così simile alle cose già vissute, tra catene di illusioni e speranze barattate. Li ho visti in faccia e sono pallidi gli eterni sogni degli uomini. Hanno polsi di vetro e vene di sangue blu, vesti candide di rugiada e capelli spettinati. Li ho visti in faccia e sono fragili, i sogni d'oro degli uomini. Hanno grandi occhi e leggende da raccontare, voci esili di paura e i capelli sporchi di salsedine. Due fuggiaschi usciti dalla zona rossa, scavalcando recinti d'ombra come fa un bracconiere. Li cacciò in un sacco di rete, velluto e maglie d'acciaio, per portarli di notte al buio al cospetto della sua musa. Li ho visti in faccia e sono pallidi gli eterni sogni degli uomini. Hanno polsi di vetro e vene di sangue blu, vesti candide di rugiada e capelli spettinati. Li ho visti in faccia e sono fragili, i sogni d'oro degli uomini. Hanno grandi occhi e leggende da raccontare, bocche livide di paura e parole disperate. Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo superato da poco le 22:31 minuti primi. Questa serata non c'è il nostro amico dell'hard rock heavy metal, per cui ancora 15 minuti da passare con ho sentito hard rock adesso in questo momento di Giulio. Eccolo qua. You made cool. chi è? Qualcuno dei Led Zeppelin forse? abbiamo citato prima, per cui penso che sia un riferimento a quelli. Non conosco tutte le canzoni di Led Zeppelin, però vado un po'. Sì, quello All Out of Love. Un singolo bestiale, come dico all'epoca, un disco che arrivò subito in testa alle classifiche americane, imbattito a Leno. Via! Allora, questa canzone che abbiamo ascoltato dal vivo era appunto quella riferita all'album cinese. Per tornare sull'album del 2011, Snodo, come fanno i nostri ascoltatori per entrare in possesso? Beh, hanno due sistemi. Sì. Uno, quello di scrivermi una mail, dopodiché io faccio recapitare l'album in versione lusso, nel senso proprio con digipack, booklet, eccetera, eccetera. Sì. L'altro, per chi invece vuole utilizzare gli strumenti moderni, iTunes, cercano Giorgio Barbarotta Snodo e scaricano i brani o il disco. Un altro ancora, Amazon, se vogliono, e anche lì possono scaricare, ordinare l'album, che arriva però in versione Jewel Box, quindi in plastica. La produzione è totalmente tua? Sì. Autoprodotto, l'etichetta è tua lo stesso? Sì. Esattamente, quindi praticamente al 100% di tua responsabilità. Sì, ma ho anche dei progetti futuri anche di produzione di altre band. Ah, bene, questa è una cosa molto importante, che verranno qua a suonare ste band. Ben volentieri. Uno si chiama Cupienda, con cui sto facendo delle cose. E poi c'è la Lunati che ti ha dato una mano per la... Ah sì, beh, Lunati, ufficio stampa, mi sto trovando benissimo. Mi ricordo il nome della responsabile, la Elena, mi pare. C'è Giampaolo, la Elena sì, Corrado, la Serena, ce ne sono. Sono uno staff veramente bravo, decisamente bravo. Sì. Una cosa volevo chiederti, abbiamo parlato della Cina, però tu sei stato recentemente in Austria, è una cosa molto importante, tra parentesi. Sì, abbiamo fatto un tour a marzo, marzo di quest'anno in Austria, con l'esordio in università a Salisburgo, dove ho tenuto una lezione concerto in dipartimento di italianistica, e dopo da Salisburgo abbiamo toccato i quattro angoli dell'Austria. Siamo andati su in direzione Passau in Germania, quindi il paese austriaco si chiama Gasthofer. Okay. Gasthofer. Quindi mi rendo conto adesso di aver detto in precedenti occasioni in radio delle baggianate galattiche. Gasthofer. Gasthofer. Gast. Gast vuol dire ospite, sì. Sì, Polsthofen. Ok, bene. Quello lì. Ok, e altri due a questo punto, per paura. Freistadt sulla via verso la Boemia, ok. Sì. E Radstadt invece. E Radstadt invece verso l'Italia. Mm. Sì. Quindi avete fatto 5 date, 5-6 date. 5 date in 4 giorni. 4 ottimizzando giorni. Proprio al massimo, compreso viaggio. Abbiamo ottimizzato al massimo. Abbiamo trovato un'accoglienza strepitosa in termini di standard proprio di ospitalità, ma questa è una caratteristica che conosciamo tutti dell'Austria. Ma anche in termini di pubblico e di organizzazione, perché il tutto è stato allestito, organizzato e gestito da direttore artistico di un festival di cinema italiano a Freistadt, che si chiama Markus Föller, che saluto perché sicuramente in questo momento sarà sul lungomare bibionese, credo. Bene, quindi si può ascoltare sicuramente. Ecco. Bene, abbiamo capito come entrare in possesso del disco. Scusami. Sì, prego. prego Giulio. Penso che manchi Giorgio si sia dimenticato di menzionare il modo più semplice per entrare in possesso del disco. Ah, giustamente, venire ai concerti. Vabbè. Ecco, giusto, ma io volevo proprio fare questa domanda. I prossimi concerti qui in zona, c'è qualche data da segnalare? Sì, noi abbiamo un concerto venerdì, questo, in Piazza Aldo Moro a Villorba, che è un paese in provincia di Treviso, e si esce a Treviso Nord ed è lì poco distante. Sì. E poi cosa abbiamo? Abbiamo Sulle mura. Il 30, sì. Un altro concerto con Filippo Graziani, il figlio di Ivan Graziani. Bene. Sempre a Treviso, che tra l'altro è la nostra zona di provenienza, sulle mura cittadine, su un bastione bellissimo che si chiama Bastione Sant'Eunisto. Ok, sì. Nel Padovano abbiamo suonato la scorsa settimana a Tre Basili. recentemente sì, insomma, e i concerti sì, si possono trovare i CD. Io tra l'altro, per chi fosse in ascolto, faccio sempre l'appello che sono costantemente alla ricerca di promoter e di agenzie con cui collaborare, perché certo, ben vengano, insomma, ci aggiriamo ovunque, per cui bene. Ascoltiamo allora un altro pezzo da disco, quindi abbiamo scelto la traccia numero 5, che è questa Podere 41, e poi torniamo per salutarci, perché siamo stati davvero bene, abbiamo allungato la trasmissione, però tutte le belle cose hanno fine, compreso questa. Però ricordiamo che nel breve, poi all'interno del nostro Facebook, e non solo Facebook, anche all'interno del nostro sito, sarà programmata anche quella che è la registrazione di questa trasmissione, se volete entrare in possesso del podcast, e poi anche le foto che ha scattato Chiara in questa serata saranno disponibili all'interno sempre della nostra pagina Facebook, che risponde al nome di Blu Radio Veneto Rock Wave. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Come la spina nel fianco, come il proiettile esperto, come bestemmie sui muri, come la rabbia del branco. Tutto si consuma, tutto cede il passo all'ovvio e all'abitudine. Guardati attorno, è questa casa tua. Hai mai sentito l'ora del podere 41? Laddove l'oro rosso luccica. Hai mai sentito ancora di polvere e sudore, di braccia tese e mani nude? Arrivederci allora al podere 41. Come la ruggine al ferro, come la corda sul collo, come l'attesa tradita, come la lama spezzata. Tutto si divora, tutto è dato in pasto ai corvi o giace immobile. Guardati attorno, succede a casa tua. Hai mai sentito allora del podere 41? Laddove l'oro rosso luccica. Hai mai sentito ancora neanche un cane? Arrivederci allora al podere 41, da dove la moneta è porpora. Arrivederci agli orchi e alle ombre del cirone, a spalle curve a vetri e chiodi. Una sposa nel fango, come scorpioni nel sonno, come la piaga al malato, come la spinta nel vuoto. Neanche un cane. vederci allora al potere 41, da dove l'universo è porpora, arrivederci ai furbi e ai lisci di padroni, abili, infami e caporali. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E così ci siamo ascoltati anche questa Podere 41, un'altra traccia dell'ultimo lavoro di Giorgio Barbarotta che si intitola Snodo. Tra l'altra cosa volevo dirti, Giorgio, che mi sembri alto, 2,50 m nella copertina, perché sei molto molto allungato rispetto invece a quella che è la tua altezza. Difatti mi aspettavo un campione di basket, in realtà. Beh, oddio, sono comunque 1,85. Sei 1,85, no, però. Sei alto per quello, sì. La copertina ti allunga, diciamo. Non sì. È stato usato sai il grand'angolo. Mm. È proprio una prospettiva che è nata da sé, perché fantastica, l'obiettivo comunque era molto vicino al sì, piede, sì, sì, sì. Molto bene, sì. Quasi un autoscatto, oserei dire, in questo caso. No, lo scatto di Serena Conti che ho fatto impazzire, poverina, ma la ringrazio molto. E quindi le parole che sono appunto scritte o cucite sono tratte dal tuo disco? Sì, sì, tutte ricamate con filo di lana. E quindi questo te lo porti anche ai concerti, lo fai vedere? No, devo essere sincero, perché sai, se fossi, e non lo sono ovviamente, Zucchero, Ligabue, eccetera, allora il costume è nato a zero per dire, no? Quindi i big, allora il costume di scena ha senso. Nel caso mio rischio anche di cadere, non dico nel ridicolo, ma quasi. Ma te lo conservi quello, sì. Ah, altro che, altro che, ci manca. A proposito di, dobbiamo citare un momento gli ospiti che forse non abbiamo citato tutti, quelli del disco. Sì, i musicisti li ho citati, ma li ribadisco perché comunque ho piacere a farlo. Nicola Azzoghedini alla batteria, Stefano Andreatta al basso, flauto traverso, Giulio Moro alle chitarre, tutti acustica, elettrica e al synth, e Giorgio Barbarotto ovviamente alla voce. A voce? In questo caso non ho suonato niente, solo voce, armonica, voce armonica e i cembali, basta. Bene. In quello prima qualcosina, ma in questo è proprio pochissimo. Solo in sala di regia, basta. E poi abbiamo come ospiti Luca Lenardi all'Hammond, sì, esatto. Che tra l'altro è il titolare di questo studio dove ho registrato, che si chiama Atracustic a Pordenone. Poi abbiamo Mauro Gatto alle percussioni, percussionista di Barba Pedana, esatto, che conosciamo molto bene, è vero, grandissimo polistrumentista, sì. Bravissimo, sì. Molto bravo, sì. E poi non accreditato Federico Piccina, programming e di avvolerie varie, con cui abbiamo prodotto assieme al disco. E che è stato anche lui in Cina? Sì, sì, sì, è stato in Cina come batterista. Esattamente. Molto bene, allora ringraziamo Giorgio Barbarotta per essere stato qui da noi. Grazie per presentarci questo suo nuovo lavoro, quindi le modalità per entrare in possesso lo sappiamo già, e comunque il sito è sempre molto importante ricordarlo, giorgiobarbarotta.it, e quindi si entra con a vedere la biografia, la discografia e quant'altro si vuol sapere di Giorgio Barbarotta, e anche per, scrivendo a lui, si entra in possesso, perché no, anche di qualche suo libro. Va bene, volentieri. Se qualcuno è amante delle poesie, può scoprire sempre nuovi mondi anche attraverso le poesie proposte da Giorgio Barbarotta. Allora, grazie ancora Giorgio, però prima di lasciarci assieme a Giulio, ringraziamo anche Giulio per averci regalato la sua splendida chitarra. Anzi, lasciala qua dopo quando... Come, insomma, è una Martin, mi raccomando. Come voglio dire. Se la rivendete fate delle bellissime ferie. Bene, allora appunto ringraziamo Giorgio Barbarotta e Giulio Moro di essere stati qui con noi, e prima di andare però obbligati a fare un ultimo pezzo. Cosa ci proponete? Io riproporrei il singolo, si chiama quello che abbiamo ascoltato prima da disco? Sì, una versione un po' diversa, un po'. Benissimo. Più raccolta. Allora io e Maurizio ce ne andiamo, salutiamo i nostri ascoltatori, e da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito consueto e caloroso ciao, buonanotte a tutti, vi lasciamo con Giorgio Barbarotta, grazie ancora Giorgio di essere venuto. Grazie a voi, sinceramente. Si intitola Noi, è tratto dall'ultimo suo disco, si intitola Snodo. Grazie a tutti, ciao. Thank you.